che perfida donna! Che tu non già volata! Vorrei sbranarla e divorar quel core! Vorrei con queste mani farli in pezzi! Vado a far un eccidio! Vuoi far una rovina! Indegna! Scelerata! Empia! Assassina! Villotto! Signor Conte! Devi uccidere Rosina! Devi passarle il cuore! Piccola bagatella! Essere cusi uccido te! Ma piano! Prima sono a vedere! Non più parole! E quel che ho detto, ho detto! Io voglio dire, cioè, non solo intendo! Veda lei se il fratello! Uccide ancora quello! Peggio, peggio! Eppur direi, mi pare, trovando un altro modo! Ah, vigliacco poltrone! Nato sol per mangiare e per far ombra! Muori una volta! Ah, per pietà, se morir devo, mi lascio un sol momento per poter fare almeno il testamento.